Grazie, ecco, di rispondere alle nostre, così, ai nostri inviti che mandiamo anche via mail e adesso, insomma, stiamo cercando di attivarci anche con l'SMS. Quindi sarà un messaggio molto breve che riceverete ogni tanto circa le nostre iniziative, le novità della biblioteca. Apro una piccola parentesi, noi ogni settimana, il mercoledì dalle 16, anzi no, dalle 17 alle 18. Chi fosse interessato può venire qui e vedere come si usa il tablet, come si usa lo smartphone per vedere i giornali, leggere i giornali, la piattaforma che mettiamo a disposizione gratuitamente degli utenti, in maniera tale che vedendolo fare e magari essendo seguiti da qualcuno, poi si possa autonomamente anche a casa leggere comodamente i Non giornali. uscire più praticamente. Essere virtualmente collegati con la biblioteca, però insomma. No, abbiamo pensato, visto che ci arrivavano tante richieste di aiuto. Invece, ecco, ci teniamo molto a continuare questa tradizione settimanale dell'incontro con l'autore, nella convinzione che il contatto personale, il sentire dalla viva voce di chi ha concepito e scritto una storia sia sempre un valore aggiunto, ecco, oltre che a leggere il libro, è importante capire e conoscere chi l'ha scritto e sentire dalla sua voce perché, come è nata questa storia e perché proprio un titolo di questo tipo, una storia con questa fine, insomma. E abbiamo con noi appunto Paolo Valente e Aldo Mazza, che è l'editore. E il diario del maestro di Cordes è una storia che ci riporta chiaramente al nostro territorio, in un'epoca recente, però che fa parte del passato, di un passato molto ricco anche di contrasti, ma sempre interessante da sentire raccontare. E non è l'ultima iniziativa, poi la prossima settimana concluderemo con il premio Claudio Augusta e con un'altra presentazione di libro. Come ogni anno, ecco, premiamo i ragazzi che hanno consegnato a questa biblioteca la propria tesi di laurea. Quest'anno sono oltre 25 circa. E infine, ecco, volevo segnalare appunto questa novità che potremo anche raggiungervi eventualmente, se avete piacere, con un SMS. Grazie ancora della vostra partecipazione. Una piccola curiosità, noi non abbiamo il libro perché le 3-4 copie che avevamo a disposizione sono andate tutte in prestito. Ecco, e questo è un buon segnale, un primo segnale che il libro piace, funziona e sta uscendo continuamente con i prestiti. Ecco. Volendo si può anche acquistare, no? Lo dico proprio perché poi lo diamo in prestito. Signori, a voi. Buonasera, sono Aldo Mazza. Io vengo, sono l'editore, il direttore di Alfabeta, delle edizioni Alfabeta Verlag, e sono qui un po' come una riserva che all'ultimo momento entra in campo perché purtroppo era prevista la presentazione con Carlo Romeo, che purtroppo ha avuto problemi di salute negli ultimi giorni ed è impossibilitato a venire, va il nostro saluto a lui e quindi io sono un po' subentrato per sopperire a questa defaillance che non era prevista. Però in ogni modo lo faccio molto volentieri con Paolo. Abbiamo già presentato il libro in un'altra situazione, quindi non è niente di. Ecco, Paolo Valente lo conoscete, credo è un personaggio, siccome siamo fuori casa, siamo a Bolzano, quindi chiarisco, un giornalista, scrittore, una persona molto attiva, diciamo, anche con ricerche sugli aspetti plurilingui di questa terra, e quindi è una persona qualificata molto qualificata a raccontare, a scrivere. Dal punto di vista insomma, più editoriale, permettetemi di dirvi che è con molto piacere che noi abbiamo fatto questa pubblicazione, insomma, realizzato questa pubblicazione, anche perché diciamo, si inserisce in un fermento abbastanza nuovo nel mondo di lingua italiana. Appunto, abbiamo assistito negli ultimi, diciamo 5, 6, 7 anni, ha un numero sempre crescente di persone di lingua italiana che vivono in questa terra, che hanno cominciato a cimentarsi nella narrativa, hanno cominciato a scrivere e a differenza del passato non hanno in qualche modo bypassato il contesto locale, insomma, perché di solito, anche prima scriveva qualcuno, però scriveva di altro, non c'era mai la nostra terra al centro dei racconti, delle storie, oppure succedeva molto raramente. io vedo in questo, ma può darsi che mi sbagli, però la mia diciamo ipotesi è quella che sia un segnale anche di radicamento, no? di sentirsi nella propria terra, di essere arrivati finalmente qui, diciamo, come gruppo di lingua italiana. E quindi noi come casa editrice abbiamo dato spazio a questo tipo di produzione. Non siamo i soli, ma dico, appunto, c'è questo filone nel quale si inserisce molto bene il libro di Paolo, che però a questo punto io insomma inviterei, siccome al centro di tutte queste chiacchiere che facciamo dovrebbe esserci il testo, inviterei forse a partire con una breve lettura di un passo che lui ha scelto del libro, dopo aver detto buonasera. Giusto, grazie. Buonasera a tutti, buonasera, pronta guarigione anche a Carlo Romeo, che speriamo di riavere presto tra noi. Ci sono tanti malati illustri in questo periodo, ma tutti quanti in ripresa. Va bene, sì, quando abbiamo fatto la presentazione a Merano ho letto alcune pagine, siccome si tratta appunto di un racconto scritto nella forma di un diario, era l'11 novembre e c'era proprio la data dell'11 novembre, quindi ho potuto leggere, da lì è venuto naturale, 11 novembre, il giorno di San Martino, però sul 12 dicembre non c'è niente, non c'è. E quindi ho pensato di cominciare di leggere proprio le prime pagine del libro, in modo che si capisca come parte il tutto. Il treno Ansima ferma al primo binario. La stazione ha un aspetto moderno. Si scende. La giornata umida e grigia informa a chi arriva che l'estate è finita. Anche qui. Le nuvole basse, dense, saldate alle pendici dei monti, impediscono di contemplare le cime che circondano il borgo. Paesaggi incantati che da un secolo almeno attraggono in città frotte di villeggianti da ogni parte del mondo. Mi sposto sul tappeto di foglie gialle, d'acero. Il viale a quest'ora tace. Altro non so de che il fruscio ritmato dei passi. Mi guardo intorno. Un vasto piazzale di terra battuta, al centro una statua di bronzo scuro, imponente, dritta alla sommità del pomposo zoccolo in arenaria rossa. Alzo gli occhi, nubi. Ci siamo, penso, con una certa emozione. Ecco i sacri confini della patria. Il viaggio non termina nella cittadina. In fondo al viale aspetta il carro che mi condurrà a destinazione. Noi sogniamo l'Italia romana. Queste parole le pronunciò il direttore Moretti nel comunicarmi, alla fine dell'anno passato, il trasferimento nella nuova provincia. Le aveva quasi declamate. La vostra è una missione di civiltà. Il Duce vi manda a operare perché la vittoria sia piena. A portare le lettere, il diritto, le arti, aveva aggiunto con un filo di boria, a gente che ignorava la scrittura in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Il carro appartiene a un commerciante di legname. È sceso in città per il mercato settimanale. L'uomo si sgranchisce le gambe alla base di un palazzo dalle linee eclettiche. Curiosa architettura, tipica degli ultimi decenni del dominio asburgico. Indossa una camicia chiara e sopra un pesante gilet da cui fuoriesce il lembo inferiore del grembiule bruno. Ben calcato sul capo un cappello scuro, di feltro, stretto in una fettuccia verde fieno. Mi riconosce subito il carrettiere. Sarà per via della borsa che gli è parsa sinonimo di cultura. Saluta da lontano con un ampio movimento del braccio rigido e curvo. Ricorda la falce quel gesto. Quando disegna semicerchi a mezz'aria da destra a sinistra, da sinistra a destra. Il buon uomo sorride. La smorfia del volto, a pensar male, somiglia a un appunto ironico. sistema i due robusti cavalli dai crini biondi. Si parte. Mio padre possedeva un veicolo tale e quale a questo. La domenica lasciava che noi piccoli sedessimo vicino a lui. A turno ci porgeva le redini e via di corsa. Pareva l'oggetto più veloce al mondo, benché si muovesse assai lento rispetto a quanto non facciano le odierne vetture automobili. Ma queste sono cose che si capiscono dopo. Da piccini non si ha il senso delle proporzioni. Mi tornano ad un tratto in mente, proprio adesso, durante il viaggio, i giorni di quell'infanzia remota, inizio secolo. Tempo felice per chi bambino assaggia la vita, giorni duri per chi adulto mastica e inghiottisce sapore di miseria. Quante famiglie hanno abbandonato il paese, stagioni di poco raccolto, parassiti dell'uva, carestia, poderi sottodimensionati, incoltivabili, inutili. Quanti hanno seguito un sogno in terre lontane, oltre i monti, oltre l'oceano. Quanti allo sbando nei vicoli delle città. I più fortunati tra quei cercatori di futuro, oppure i loro eredi, potrei incrociarli proprio in queste contrade. Mentre la città ci scivola accanto semideserta, è mezzogiorno, leggo i loro nomi, così familiari, sulle insegne di qualche bottega. Il mio compagno di strada non parla italiano neanche a pagarlo oro. Non per cattiveria, non ne conosce una parola. Però si fa capire, vuole sapere se ho mangiato. No, gli dico, estrae una pagnotta di segale, un salame e una mezza fiaschetta di vino. Accetto l'invito a pranzo e getto via tutti i pensieri. Passiamo sotto un arco antico. Lassù svetta una torre merlata, come quelle delle favole. Più avanti un castello cinto di mura ricoperte d'edera. Tra le foglie e le pietre indugia una lucertola. La borgata e le sue nuvole basse ce le lasciamo silenziose alle spalle. Ma è il silenzio dell'autunno. Ecco, questo è l'inizio molto, molto forte del libro, molto catturante del libro, perlomeno per il mio gusto letterario. E da qui comincia questa avventura di questo maestro di Cordes, appunto, arrivato durante il periodo del fascismo in Alto Adige, con i compiti che avete sentito, con queste cose da fare rispetto a questa terra. Ecco, una prima domanda così che vorrei farti è, anche per darti la possibilità anche di raccontare come è costruito, nella nota finale tu scrivi: non si tratta di una storia vera, tuttavia non si tratta nemmeno di una storia inventata, perché la maggior parte degli eventi, degli episodi, si basa su testimonianze, eccetera, eccetera. Allora, questo discorso tra il vero e l'inventato, no? Se potessi un pochino forse usarlo come pretesto per raccontare anche lo sviluppo della storia. Mm-hmm. Diciamo che individuare un paese vero, realmente esistito, avrebbe probabilmente reso meno vero tutto il racconto, perché... Quindi Cordes non esiste, diciamo, per non esiste, non andate a cercarlo. Andate a cercarlo, a meno che io sappia non esiste. Avete già cercato, non esiste. Diciamo che se fosse una realtà realmente esistita, come minimo sarebbe stato necessario che io ci fossi cresciuto, ecco. Allora avrei avuto in qualche modo il diritto di raccontarla. Altrimenti si rischia di dare un nome reale a una descrizione che non è reale, perché poi oltretutto, essendo ambientato negli anni 30, già per me c'è la difficoltà di calarmi in quell'epoca, in quel tipo di mentalità, con i problemi, il tipo di vita, eccetera, cosa che ho potuto almeno in parte fare grazie ai miei studi di carattere storico, i molti giornali degli anni 30 che ho letto. Ecco, questo mi ha aiutato a calarmi nella situazione. E, diciamo che la storia altoatesina si può raccontare anche con degli esempi un po' tipici, se vogliamo. c'è sempre il rischio di generalizzare anche qui, no? Quando noi raccontiamo la storia dell'Alto Adige, la raccontiamo come fosse una, invece se si va a scavare ci si accorge che di storie ce ne sono molte e tutte queste storie insieme ci portano a essere un po' quello che siamo. Ecco, e quindi questa è la storia di una persona in un, diciamo, in una realtà particolare che ha delle caratteristiche che probabilmente sono comuni ad altre realtà. Ci sono dei personaggi che potrebbero effettivamente appartenere, potrebbero effettivamente essere esistiti, e poi se vogliamo ci sono anche degli inserti, usare la parola veri non so se è, ma però originali potremmo dire, nel senso che l'idea prima di questo racconto a me è venuta tanti anni fa quando stavo ricostruendo la storia della borgata di Sinigo alle porte di Merano, che oltretutto il libro è stato poi ampliato e ripubblicato proprio da Alfabeta 2 anni fa, se non sbaglio, con i piedi nell'acqua. Con i piedi nell'acqua. Ecco, una delle fonti a cui io ho fatto riferimento sono i registri scolastici della scuola di Sinigo, e a quel tempo, parliamo anni 30 appunto, primi anni 40, i maestri elementari erano tenuti a compilare delle cronache accanto a, diciamo, agli aggiornamenti, ai voti, a tutte queste cose qua, le assenze dei ragazzi. C'era uno spazio intitolato cronaca scolastica, e in queste cronache inserivano delle loro annotazioni, oppure alcuni proprio tenevano una specie di diario, diciamo così, per cui dicevano: oggi abbiamo fatto questo, oggi è venuto il direttore, oggi però è successa questa cosa nel paese. Quindi era è una fonte che dà informazioni al di là del contesto scolastico, sempre naturalmente dal punto di vista dell'insegnante, e tenendo conto che poi, ecco, non erano dei diari che poi uno si teneva nel comodino, ma periodicamente arrivava qualcuno a leggerli, quindi ovviamente bisognava stare anche attenti a quello che si scriveva. Veniva l'ispettore, controllava, eccetera, no? Quindi una fonte ufficiale, però molti di questi maestri si lasciano proprio a delle confidenze. Adesso non è che parlano appunto delle loro storie personali, però le loro valutazioni su questo ragazzo, su questo episodio, anche a volte osservazioni critiche proprio sull'istituzione scolastica, la missione da compiere è sempre molto dichiarata, però per esempio se c'era da dire che l'aula è umida, è fredda, eccetera, lo scrivevano, ecco, no? Quindi io alcune di queste cose le ho inserite, diciamo così, incastonate nel testo, e ho cercato un po' di adattare anche il resto a questo tipo di linguaggio, un linguaggio un po' maestro anni 30, per così dire, se non so se può definire così, e quindi ho cercato di estendere questo linguaggio che io ho ricavato dai registri scolastici originali a un po' a tutto il racconto, o almeno a quelle parti che fanno più riferimento a, diciamo, a una scrittura di tipo diaristico, no? Perché poi ci sono anche altre parti che sono più delle riflessioni, delle rielaborazioni, quasi un po' dei pensieri, diciamo così, che hanno un po' meno a che fare con la cronaca, e lì uso un po' un altro linguaggio. Adesso mi sono già dimenticato. No, ma la cosa interessante per me è il discorso, appunto, quello che tu dicevi, non si può generalizzare. La cosa interessante è però che in qualche modo si osserva questo posto da un punto di vista, che è il punto di vista in questo momento del nostro maestro, del nostro protagonista, ma che è di una persona che guarda con gli occhi, tu aiuti, no, a vedere come lui, come l'impatto con questa realtà, perché va a finire appunto in Cordes, non esiste, ma certamente non è una città, è un paese, è una valle, no? Quindi tutte le caratteristiche anche rispetto al territorio sono identificabili in qualche modo. E appunto quello che che viene fuori appunto l'impatto con questa realtà, come vede lui questa realtà. Anche a me interessante come arriva, con quale informazioni arriva, cioè nel senso che arriva qui con dei compiti, avete sentito, diffondere la romanità, cos'è? Noi sogniamo l'Italia romana, no? Quindi un compito abbastanza impegnativo, anche quello che troviamo scritto sul monumento alla vittoria, cioè nel senso che noi saremmo quelli che poi davano la civiltà ai barbari, insomma. Quindi lui arriva con questo compito e poi si trova dentro questo microcosmo, no? E appunto è interessante per me, così da lettore dico questo, la presa di coscienza, no? Cioè come questa persona riesca in qualche modo a costruirsi, anche se ha un'immagine all'inizio sporcata dalle cose dette, riesce a costruirsi una sua immagine e tu lo accompagni in questa scoperta. Ti viene da dire qualcosa rispetto a questo? Io cerco di... No, è chiaro, qui ci sono un po' i vari livelli, come oggi anche esistono, dai quali le persone traggono delle informazioni per fare le proprie scelte in definitiva, no? Perché è chiaro che lui ha un mandato politico, diciamo così, no? Ha anche un mandato, chiamiamolo pedagogico o didattico, è un maestro, quindi deve insegnare a leggere e a far di conto, su questo non si discute, no? Quindi quello è le informazioni che lui trae dalle sue competenze professionali, no? Poi ci sono delle informazioni che lui trae dalla propaganda di regime. Il maestro in questo contesto non ha solo il compito di insegnare a leggere e a scrivere, ma ha il compito di essere in qualche modo uno strumento dell'Italia fascista, che vuole fare come dicevamo anche lunedì, no? Perché qua possiamo fare riferimento alle puntate precedenti. Il fascismo in Alto Adige non aveva solo, diciamo, questa idea di italianizzare, ma come in tutto il territorio nazionale aveva l'idea di creare questo italiano nuovo, no? Che fosse un antropologicamente migliore, no? Quindi non quel soggetto sottomesso per secoli e secoli, che privo di iniziativa, che ha perso tutte le sue caratteristiche culturali, ma appunto il fascismo nella sua ideologia aveva questa, sentiva questa missione, no? Che richiedeva appunto che a livello nazionale ci fosse in qualche modo una omologazione anche di tipo culturale, e per quanto riguarda l'Alto Adige in particolare, questa fascistizzazione o rinnovamento in senso fascista dell'uomo passava attraverso l'italianizzazione, no? Quindi l'italianizzazione di per sé era un passaggio di questo più ampio disegno, no, di fascistizzazione, no? E oltre alla cultura, però la cultura ufficiale arrivava, fino a un certo punto. Poi gli organi di informazione di massa, ma anche quelli, i giornali già oggi li leggono in pochi, negli anni 20 e negli anni 30 ancora meno. C'era la radio, che cominciava a essere uno strumento importante, ma certamente il luogo dove investire più di tutto era la scuola, perché lì si prendevano questi piccoli italiani, da piccoli appunto, e si potevano plasmare, secondo l'idea allora presente, molto più facilmente, no? Tanto è vero che lo stesso il regime fascista, proprio i primissimi provvedimenti che prende in Alto Adige riguardano il mondo della scuola, già nel 1923, no? Quindi aveva capito benissimo qual era lo strumento più importante di cui fare uso, no? Quindi il maestro arriva con questo mandato che è sia di carattere ideologico, no? Che di carattere politico. Si fonda però principalmente su una visione che è costruita dalla propaganda, no, di regime. E quindi lui arriva anche con queste informazioni qua. Poi lui ha alle spalle la sua storia, perché anche qui va detto che il maestro, che non esiste neanche lui come me, no, però io lo immagino proveniente dal Trentino, quindi è anche lui uno che alle spalle ha comunque un, come dire, un passato asburgico, per così dire, o austriaco, anche se vissuto nel Trentino è diverso da, da averlo vissuto in una valle dell'Alto Adige, no? Però alcune informazioni, alcune immagini, alcune nozioni sono o si rivelano poi comuni, no? Al di là della differenza linguistica, no? Quindi lui questa, anche qua dice, già all'inizio lui dice, ma questo carretto è come il mio, come quello che aveva mio padre, no? Già lì comincia a dire, ma qual è, a chiedersi continuamente qual è la differenza in fin dei conti, no, della mia storia e della storia di questa, persona. Ecco, un ruolo molto importante è quello soprattutto della lingua, diciamo, nel senso, perché poi uno si dice io vado a italianizzare, creare il nuovo uomo, c'è, cioè, l'uomo nuovo, eccetera, però di fatto uno la lingua era un fattore, diciamo, di esclusione per lui, in quanto non comprendeva quello che si parlava nel paese, aveva il problema di insegnare, di avere davanti delle persone che non capivano niente all'inizio del suo italiano, quindi c'è tutto, e lui fa qua dei paralleli anche con un po', vede, cioè, come se sentisse che questa azione è abbastanza violenta, no? Cioè questa azione di italianizzazione linguistica, dico, è molto violenta, lui fa un parallelo col Tirolo, no? Proprio appunto visto le origini trentine, dove le lingue servivano per comunicare, non per dividere, cioè intravede un po' come fattore linguistico, per esempio, a partire da allora da noi è stato anche un elemento abbastanza così, diciamo, che ha creato spesso divisione, no? Più che inclusione. A questo punto lo vedi tu anche in questo modo, questo tipo di, perché nel libro spesso, diciamo, avvengono questi riferimenti alla lingua, già dall'inizio, quando lui cerca di comunicare cioè riesce a comunicare a gesti, no, sul mangiare con la persona che lo accompagna in paese, no? Cioè, quindi c'è questo che accompagna un po' tutto il libro, no? Sì, diciamo, già da quello che ho letto si capisce che la lingua di per sé potrebbe essere superflua, perché alla fine il problema era mangiare e loro hanno mangiato. Sì. No? Però naturalmente uno non capiva quello che diceva quell'altro. E, sì, chiaro che questo è un po' il filo rosso in tutto il racconto, perché il suo problema fin dall'inizio è che si trova davanti dei bambini che non capiscono quello che lui dice. O alcuni lo capiscono, perché poi dipende se sono di prima elementare o meno, le famiglie, no? Lui stesso dice, appunto, io di per sé non è che io non abbia studiato tedesco, perché nel Trentino anche lui diciamo, faceva parte delle materie di insegnamento, anche il tedesco, anche se la scuola era in italiano, no? Quindi in teoria, però, no, come avviene quando la lingua si colora di ideologia, allora uno ha o perde la motivazione, no, qui, diciamo, Alfabeta penso potrebbe insegnarci molto su questo, no? Ma la motivazione, che è fondamentale nell'apprendimento di una lingua, ma se io ritengo che, per esempio, nel Tirolo di inizio Novecento, di fine Ottocento, se io mi ritengo una nazionalità oppressa da una maggioranza di lingua tedesca, non ho lo spirito adatto per apprendere la lingua, a meno che non lo ritenga utile dal punto di vista professionale, eccetera, no? Così come avviene oggi con l'apprendimento sia del tedesco che dell'italiano in Alto Adige. Se ci sono le motivazioni, la cosa funziona, e certe volte sono le motivazioni opposte, per cui uno addirittura non vuole, no, apprendere. E quindi tutto questo c'è già dentro. E appunto il ragionamento è quello di dire, ma sì, ma la lingua di per sé cosa serve? Serve per comunicare, quindi serve per unire, no? E allora è un paradosso che da noi la lingua crei delle divisioni. Da dove viene questa storia qui? E è chiaro che è un fenomeno relativamente recente, nel senso che fino, diciamo, a metà dell'Ottocento, dobbiamo proprio dire una data, insomma, circa metà dell'Ottocento, prima la lingua effettivamente ha questo scopo, comunicare, e difatti non ci sono particolari problemi tra gruppi per motivi linguistici. Con i nazionalismi la lingua diventa una bandiera, diventa un valore ideologico, no? E se vogliamo, colpa, ma lo dico tra moltissime virgolette, di tutto questo è forse proprio l'origine è nella scolarizzazione di massa proprio, no? Perché quando si passa dalla scuola di élite, dove magari si usa addirittura il latino come lingua di insegnamento, a una scuola dove tutti vanno, allora si pone il problema di che lingua usare. E in una realtà linguisticamente omogenea il problema non c'è, ma quando invece ci sono più lingue si pone il problema. Allora uno si chiede, incomincia a capire che lui è di questa lingua piuttosto che di un'altra lingua, no? Quindi questo per dire che fin dall'inizio la scuola è coinvolta in questa cosa qui, no? E probabilmente all'inizio non ha trovato il sistema giusto. Klaus Gatter, nel descrivere questa situazione, parla appunto di guerra delle scuole, no? Parlando di fine 800, inizio 900, no? È lì che nascono tutte queste anche associazioni nazionali e nazionalistiche, che hanno proprio come scopo quello di istituire una scuola di lingua tedesca, per esempio in Trentino, o una scuola di lingua italiana in Alto Adige, ma mica solo nel Tirolo, in tutto l'impero austro-ungarico c'è questo fermento che è legato alla lingua e alla scuola, no? E quindi è chiaro che il maestro, che è proprio strumento di questa attività, non può non chiedersi, no, che senso ha tutto questo. Ecco, anche se diciamo condivido tutto quello che hai detto, però bisogna tenere presente che quello che lui racconta nella storia, proprio parlo dell'impatto del lavoro con i suoi alunni, eccetera, è un qualche cosa che per me è di violento, diciamo, no? Cioè, anche perché è mandato a fare proprio questa cosa qui in maniera molto precisa, che crea forse anche delle ferite, no? Nell'altro gruppo, di cui insomma, non sono non si può ancora, cioè, io non accetto che uno si appelli ancora a questo per dire oggi, però dico, bene o male ha creato i presupposti per una situazione molto conflittuale sul tema linguistico, no, dal momento in cui una lingua è stata imposta. A me quello che però colpisce molto nel percorso del maestro di Cordes è che lui attraverso appunto le sue esperienze quotidiane sviluppi, e questo la trovo una cosa molto salutare, molto importante, sviluppi un rispetto per questa cultura, no? Cioè, molte volte si è appunto arrivato qui pensando di dover civilizzare, diciamo. Lui dice a un certo punto nel testo, gli fai dire rispetto alla cultura locale, dura sebbene tutt'altro che rozza, no? Quindi mandando via un luogo comune che vorrebbe, diciamo, noi quelli raffinati, intellettuali, Rinascimento, l'età, e poi questa cultura contadina, no? Quindi il percorso suo, diciamo, che è poi un percorso esperienziale, diciamo, all'interno del racconto, cioè lui non fa niente altro che vedere, osservare, avere relazioni, sentire anche il direttore quando viene a Bolzano che gli racconta di quello che è il suo compito, eccetera, si forma un'idea di questa cultura che comincia a conoscere ispirata a un profondo rispetto. Ecco, questo è un messaggio che io percepisco nel libro e che trovo molto forte, diciamo, no? Perché è insomma, il punto da cui partire. Sì, pagina 36 c'è questo. Non è che sa, però io l'ho segnato qua, perciò l'ho messo lì. Siccome parla del pane, no? Sì, giusto. Quello dice Grano, segale, orzo, avena, formentone. Tra questi monti mettono radici solo le qualità più resistenti e tutte poi concorrono a rendere varia la produzione del pane. Il quale si distingue per l'estrema fantasia delle forme e dei nomi. Il pane è il biglietto da visita che raccoglie a un primo impatto chiunque capiti in questa terra, quale che sia il motivo. È l'immagine di una cultura articolata ma essenziale, adatta a chi ha denti buoni, dura sebbene tutt'altro che rozza. No, questo per dire che diciamo, il rispetto per la cultura in realtà, da dove viene, come poi secondo me anche tutta l'evoluzione della storia, della sua storia, viene dall'incontro con le persone. Non è che lui abbia frequentato dei corsi di cultura, lui ha man mano, a cominciare dal carrettiere famoso, ha incontrato delle persone sul suo cammino e queste persone sono loro portatrici di cultura, diciamo, no? Per esempio, il pane fa parte della cultura, quindi l'osservazione sul pane deriva dal fatto di condividere questo pane oppure di non condividerlo, di essere escluso dalla condivisione di determinate cose, no? Cosa che lui prova, perché naturalmente non è subito accolto a braccia aperte dai paesani, no? Però ha l'occasione comunque di entrare in contatto, di vedere man mano queste cose e quindi di sviluppare questa forma di rispetto, sempre poi facendo riferimento anche alle sue esperienze, al suo vissuto, eccetera. Quindi sono storie, diciamo così, di vita che si incontrano e culture che si incontrano, sì. No? E da lì nasce il rispetto, no? Non è forse necessario che è scontato che nasca rispetto, però dipende dall'atteggiamento di ognuno. Lui, diciamo, forse era una persona... Sì, anche un'altra caratteristica che dimostra è la curiosità, cioè l'interesse, perché anche questo rispetto parte dal fatto che lui è interessato a vedere cosa fanno, cioè, quindi poi c'è una capacità di non farlo diventare un giudizio buono, sbagliato, eccetera, ma questo lo permea un po' come personaggio. Ma questo, diciamo, forse dipende dal fatto che lui è un maestro, quindi no, il maestro. Sì, ma non tutti i maestri. No, non tutti, però... Sono anche i cattivi maestri. Sì. Diciamo che i maestri, soprattutto i maestri elementari, hanno questa curiosità di approfondire le cose, di ricercare, anche di conoscere i particolari, eccetera. Io, diciamo, parlo essendo figlio di maestri. Quindi deve dipendere la categoria. Sì. No, perché la categoria la fa. Ecco, per darvi ancora un'idea, poi sarebbe interessante se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. In effetti poi si tratta di una... all'interno di questo, cioè non è un diario nel senso che racconta così in maniera asettica quello che è successo nei vari giorni, ma c'è tutta una vicenda all'interno, una storia, un plot, diciamo, no? Per cui c'è come in tutte le storie che si rispettano, non è un giallo quindi vi posso dire come va a finire, ma c'è come in tutte le storie che si rispettano, c'è una storia d'amore dentro che è l'elemento, diciamo, che così scatena tutta una serie di effetti, no? Ve l'anticipo, c'è un happy end nel senso che finisce bene, oppure almeno probabilmente finisce bene. E nella ricostruzione, diciamo, l'ultima domanda che mi interessa farti, nella ricostruzione, diciamo, del contesto ambientale, e quindi con tutte le dinamiche che ci possono essere all'interno del paese e soprattutto quelle all'interno del paese, un certo ruolo gioca nella vicenda, ma poi mi interessa l'astrazione rispetto a questa, gioca la Chiesa, diciamo, no? Mi interesserebbe capire da te un po' qual è secondo te, diciamo, quello che ha nella storia in generale, poi quello che può essere il ruolo della Chiesa all'interno di questo nostro percorso faticoso, diciamo, di convivenza. E poi c'è un'altra domanda, quella finale, ma te la faccio dopo. Qui torniamo all'argomento. Non c'è lunedì. No, era uno studio sulla stampa cattolica. come si chiama? Tra le due. L'Alto Adige. L'Alto Adige, dal 33 al 39, sì. In cui appunto si ragionava sulla figura anche di Gamper, eccetera. Mettendo in luce anche questi aspetti controversi, perché la Chiesa Cattolica nella storia dell'Alto Adige, è chiaro che ha avuto un ruolo determinante dal punto di vista culturale, eccetera. E, molto spesso ha avuto un ruolo anche, come dire, importante nel garantire una certa continuità a livello sociale, a livello di relazioni, anche a livello valoriale, se vogliamo, inteso nel senso della convivenza civile. Quindi anche il passaggio dagli anni 30, dalla tragedia delle opzioni, la Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione, molti elementi provenienti dalla Chiesa Cattolica hanno in qualche modo garantito che la cosa prendesse una direzione, diciamo così, che in altre parti del mondo non ha preso. Tuttavia ci sono state e ci sono diverse anime, no? Se vogliamo anche qui nel racconto ci sono due esponenti, due figure, no? Sì. In realtà. Uno che è il frate e uno che è il parroco, no? Il parroco, diciamo, è più, se vogliamo, l'istituzione, no? E il frate invece è più la persona capace di leggere l'anima delle persone, no? Che sono appunto, se vogliamo, alcune delle facce che può avere e può avere avuto la Chiesa anche nella nostra storia. Certamente nel corso durante il periodo fascista la Chiesa Cattolica ha avuto o si è trovata addosso questo ruolo di garantire uno spazio in cui potesse essere mantenuta la lingua tedesca e la cultura tedesca, quindi per esempio l'insegnamento della religione al di fuori della scuola in lingua tedesca, l'uso della lingua tedesca nei seminari minori, la stampa appunto di lingua tedesca, perché tutti i giornali importanti di lingua tedesca facevano riferimento all'azione cattolica, compreso il Dolomiten, ma anche il Volksbote e tutta questa stampa qui, e poi anche ha avuto un ruolo determinante nel momento delle opzioni e anche nel comunque mantenere un nucleo di resistenza, diciamo, alle ideologie totalitarie, di cui, se vogliamo, simbolo è Josef Meyer Nusser, che non è, sembra un caso isolato, probabilmente per molti versi lo è, cioè conoscete la storia di Josef Meyer Nusser. Ma è così perché ha potuto, all'interno soprattutto dell'azione cattolica, fare un cammino di conoscenza di cos'è il nazionalsocialismo, di qual è la sua ideologia, di quali sono le conseguenze di un certo tipo di politica, no? Ecco, naturalmente quella era una parte minoritaria, perché la gran parte, non solo della popolazione in lingua tedesca, ma in generale, in quel periodo si è fatta ipnotizzare dalla propaganda dell'una o dell'altra parte. Ecco, quindi in questo senso la Chiesa Cattolica, ripeto, nelle sue diverse anime e con diverse, poi per non parlare appunto dei preti che assistevano, gli internati del Lager o che sono stati a loro volta internati, qualcuno è anche morto nei campi di concentramento. Ecco, è stata comunque una realtà in qualche modo critica rispetto al contesto, no, in quel periodo. E questo emerge anche da questo. Ecco, cioè, prima di farti l'ultima domanda, volevo solo dire appunto, adesso avete visto che anche parlandone mi accorgo che abbiamo fatto molte astrazioni, diciamo, abbiamo parlato di riflessioni in generale, però appunto, non lo dico perché sono l'editore o perché Paolo è qui, cioè la storia è bella da leggere, diciamo, cioè avete anche avuto qualche assaggio del testo, cioè al di là non è che ogni volta dobbiamo pensare per con i massimi sistemi, però è una storia che è esemplare, no? Nella capacità di farci riflettere, no? Di darci alcuni spunti anche di comprensione, se vogliamo, no? Anche del presente, di farci riflettere, però rimane per me il valore quello della storia in sé, diciamo, per cui non è un trattato di storia camuffato, anche se poi Paolo fa un glossario in cui indica, a fine libro ci sono alcuni riferimenti di fonti storiche, eccetera, ma questo, però la storia regge di per sé, se no non avremmo pubblicato. E qui vengo alla domanda, perché non è un pubblicato, ma è un ripubblicato. La domanda finale mia è questa, cioè la domanda mia finale è questa: il volume è apparso già anni fa con il titolo Il maestro di cordes, no? Con la praxis. Dopo 10 anni, no? È stato ripubblicato da noi adesso in una versione anche diversa. 15 anni. Quindi, no, sì, 97, sì. È stata ripubblicata da noi, quindi è stato come scritto due volte, no? Quindi la mia domanda è questa, diciamo, per quale motivo hai sentito il bisogno di ripubblicarlo, no? E cosa è cambiato in te rispetto al Paolo Valente che scriveva nel 90, cambiare adesso non mi devi dire la storia, ma diciamo, riprendendolo in mano la cosa scritta 15 anni prima e rimettendola, insomma, ti avrà suscitato delle emozioni o dei pensieri, questo, ma senza di dire, non devi dire cose epocali, cioè, basta. Prima il motivo per cui l'hai voluta ripubblicare, secondo, quindi un po' che cosa che è successo in questo lasso di tempo in Paolo Valente. Ma diciamo che in realtà l'input a riscrivere, perché dice al... Io appunto l'ho visto qua. Sì, sì. Questo è esaurito, credo, no? Sì. Questo è diciamo il padre di questo, in qualche modo. Vedete che di... allora, a parte poi la stampa che rende, questa figura, anzi, per la quale ringrazio Paolo Toldo Quaresima, realizzata appunto 16 anni fa e noi abbiamo ripreso. E, lo spunto in realtà non parte da me, ma diciamo da un amico di Milano che oltretutto mi ha fatto sapere che vuole essere considerato presente qui oggi, anzi è stato qua quando abbiamo presentato La città sul confine, anche lì parliamo di 6 anni fa circa, no? E è lui che avendo conosciuto questo mi ha detto ma io ti consiglierei di riprenderlo in mano e di in qualche modo riscriverlo, cosa che io sì, ma mi sono messo a farlo effettivamente e man mano naturalmente diciamo dal 97 a non dico ad oggi ma a quando abbiamo poi deciso di ripubblicarlo effettivamente io insomma ho vissuto nel frattempo, ecco, no? Quindi naturalmente lì dentro c'è qualcosa di nuovo che io ho vissuto in tutti questi anni, ho vissuto a livello di relazioni, di mia storia personale e poi anche avendo io fatto poi tutta una serie di studi storici soprattutto sulla realtà di Milano, anche riferiti a questo periodo storico, ho potuto approfondire anche questo aspetto e quindi integrarlo con nuove cose e poi soprattutto ecco, quello che è decisamente nuovo rispetto al primo testo è un po' la chiave di lettura, se vogliamo, questa idea del confine che, sulla quale io ho riflettuto spesso in questi ultimi anni entra, no, anche nel racconto e viene esplicitata in più punti, quindi io direi insomma ecco, c'è un po' di tutto questo dentro. Ecco, io ringrazio Paolo per le sue parole. Adesso se qualcuno di voi ha interesse, voglia fare, non sono obbligatorie le domande, però appunto, se qualcuno approfittiamo dell'occasione di averlo qui, o poi potete anche leggervelo volendo, cioè spero che abbiano leggiato, non solo in prestito, però... No, poi naturalmente questo è da acquistare, possibilmente non una copia a testa. Anche qui è Natale, essendo, no? Essendoci Natale, no? Almeno 2 o 3 copie. Ce ne sono abbastanza. Io adesso vediamo. Io sono diventato molto prudente sulle vendite, quindi siccome devo trasportarli preferisco ridurre i numeri. Allora, se avete qualche, se c'è qualche domanda... A me piacerebbe sapere come era vista la figura del maestro dalla popolazione locale. Se per esempio il maestro che veniva dal Trentino era visto in un certo modo, il maestro che venisse da province più lontane era visto in un altro modo, se malgrado diciamo l'ostilità latente perché portatore di cultura e realtà diverse, c'era una dignità del ruolo del maestro che era riconosciuto socialmente al di là della sua appunto rappresentatività. Ecco, questo mi interesserebbe sapere, l'atteggiamento della popolazione locale nei riguardi del maestro immigrato. Premettiamo appunto, come si diceva, che Cordes è una sintesi dell'Alto Adige, perché poi questa, per rispondere a questa domanda bisognerebbe dire che le realtà in Alto Adige sono 1000, no? Quindi nel senso che un conto è fare il maestro in un paese in cui tutti i bambini sono di lingua tedesca e ci sono diverse zone così, un conto è farlo in una città o in un quartiere di Bolzano dove sono tutti italiani, ma non parliamo di questo, o in un quartiere di Merano dove possono essere italiani e tedeschi insieme, visto che la scuola era unica, o nella Bassa Tesina dove anche diciamo, i rapporti tra la popolazione sono diversi. Penso, no? Piuttosto alla popolazione rurale di montagna. Popolazione rurale di montagna, allora, come diceva lei, certamente c'è un rispetto di fondo per il maestro, però un rispetto formale, cioè rispetto del maestro che rappresenta un'istituzione. Della figura, diciamo. Quindi sì. Questo direi che è una cosa che si riscontra anche dai racconti di maestri, poi in particolare in quel periodo non è che si potesse fare grandi rivoluzioni, no? Comunque si aveva rispetto della figura, come si aveva rispetto del parroco, del maestro, sì, ma comunque il maestro era sempre stato anche prima una figura che andava al di là del suo ruolo specifico, per esempio molti maestri erano anche i sacrestani, no? E quindi avevano a che fare con la parrocchia, erano diciamo una figura di riferimento importante, no? Come può essere il medico, anche l'altra figura, io direi più che il carabiniere, no? Però no? Il medico o farmacista, il maestro e il parroco, no? Sono le istituzioni in cui, di cui le persone si fidano. E quindi anche se il maestro arriva che non sa una parola di tedesco, che è lì per i motivi che abbiamo detto, comunque ha questo rispetto formale da parte della popolazione. Questo è un dato importante, sì. Agli effetti dell'apprendimento comunque, perché sì, sì. Il maestro a mio avviso, parlo di questa zona, aveva un'autorevolezza appunto in quanto tale, sì, sì. Anche se mal visto dichiaratamente della lingua, cioè, ma questo però, appunto si vede poi dai risultati effettivamente, perché tutte le persone che sono andate a scuola di lingua tedesca in quel periodo hanno imparato bene l'italiano. Cioè, bisogna pensare che al di là della lingua poi questa persona era quello a cui affidavano i propri figli per la formazione, no? Cioè, a parte perché devono anche imparare a fare di conto e altre cose, quindi non era, no, c'era. Quindi è una figura decisiva per lo sviluppo. Sì, sì, sì. No, ma diciamo, questa situazione si avvertiva, io ho insegnato, con delle classi di montagna alle scuole medie, tantissimo tempo fa, E ho avvertito questa situazione della quale appunto chiedevo verifica, e cioè che al di là del fatto che l'italiano fosse gradito o no, che l'insegnante fosse, c'era il rispetto della persona e del ruolo che questa rivestiva socialmente, sì, sì. Che è una cosa, appunto, torno a dire, che a mio avviso è molto importante. Se oggi si è persa l'autorevolezza di molti ruoli, la società risente, penso io, in modo decisamente negativo. Diciamo, volendo generalizzare rispetto al carattere dei popoli, eccetera, sicuramente la popolazione di lingua tedesca è un po' tutta, in tutta l'area di lingua tedesca, sicuramente c'è un rispetto delle istituzioni molto maggiore di quello che ci sia in Italia. Ecco, ma questo dipende, se vogliamo, anche da quello che si diceva prima, cioè l'Italia esce da secoli in cui le istituzioni erano rappresentate, per esempio, dallo straniero o da qualcuno che andava a dominare, eccetera. No, purtroppo, inutile che ce lo diciamo, perché lo sappiamo benissimo, ancora oggi il grosso problema dell'Italia è questa carenza di senso civico, di identificazione con le istituzioni, che poi ovviamente i cittadini danno la colpa ai politici, i politici se la prendono. Io cito spesso nel tedesco asburgico, c'è ancora viene questa esperienza, per dire una bella giornata, il Kaiserwetter, no? Il tempo dell'imperatore, a dire la bella giornata. Noi diciamo piove, governo ladro, cioè, nel senso che l'autorità è colpevole, per noi è un estraneo, è un nemico, no? Certo. Come proprio, e mentre dall'altra parte c'è addirittura che l'autorità è meritevole del fatto che ci sia, cioè, certo, questo è frutto della storia. Sì, sì, sì, sì, questo ha a che fare con, non c'entra con l'attuale. Riesca a superarlo, perché a un certo momento di tempo adesso comincia a essercene abbastanza, ma i progressi sono assai limitati. In Italia c'è la mentalità per cui comunque lo Stato in qualche modo mi vuole sottrarre qualcosa. Sì, sì. E quindi io mi sento autorizzato a fare il furbo, no? Cosa che invece non c'è in altre culture, no? Non perché sia gente superiore, ma perché effettivamente dal punto di vista culturale c'è questa differenza. E se vogliamo, una delle cose che mi spinge a dire che l'incontro tra culture è una cosa molto positiva è che si può dall'altra cultura prendere ciò che c'è di meglio, no? A volte avviene il contrario, le culture si incontrano, io prendo il peggio di te, cioè. Ma si può anche fare, io penso che in Alto Adige per esempio ci sia un clima favorevole a che ognuno possa prendere il meglio dall'altro, no? Ripeto, non sempre questo avviene, perché anche il rispetto formale ad oltranza dell'autorità può essere, non è detto che sia, perché quello che è successo poi quando l'autorità era rappresentata dal Führer, no? Anche lì probabilmente c'è stata un'adesione, perché quello rappresentava l'autorità. Allora in quel caso io preferisco uno che abbia un senso critico nei confronti dell'autorità, quello era lo Stato, non era, no? Quindi diciamo che c'è modo e modo di rapportarsi con l'autorità, non è sempre positivo, no? Però ecco, le cose messe insieme, no? Diciamo che anche in Alto Adige ci si può scambiare cosa si ha di meglio, no? Poi dipende, però, per continuare sulla questione, poi il maestro è rispettato in quanto maestro, ma poi se riesce a entrare in relazione con gli altri dipende sostanzialmente da lui, no? Cioè dipende, certo, dalla disponibilità, appunto. Il maestro deve per primo imparare a conoscere la realtà delle persone alle quali vorrebbe insegnare qualche cosa. Sì. Prima e quindi adesso lei naturalmente non avrà insegnato negli anni 30, no? Però lì chiaramente ci sono stati anche dei maestri che, pur essendo consapevoli di avere questa missione politica, no? La portavano loro malgrado, nel senso che non erano convinti, loro avrebbero voluto fare i maestri, dovevano anche fare queste cose qui. E quindi, per esempio, rispetto alle scuole clandestine di cui venivano a conoscenza, eccetera, chiudevano un occhio, non dicevano niente, lasciavano fare, eccetera. Non ci sono testimonianze di questo tipo, no? Perché erano in, diciamo, in sintonia con la popolazione, non erano lì per motivi ideologici, ma per motivi pedagogici, o, diciamo, prendendo sul serio la propria missione, che non è quella di noi sogniamo l'Italia romana, ma cerchiamo di... Non sono solo nozioni, no. E anche trasmissione, c'è anche il feeling che è fondamentale, cioè chi apprende deve sentire che l'altro ha una predisposizione buona nei suoi riguardi, altrimenti il rapporto scolastico si trasforma in ostilità. No? Ma questo vale in ogni tempo, no? Ci sono altre domande? Ma sarebbe interessante, ipotizzo, anche una traduzione in lingua tedesca, nel senso che anche la popolazione di Codessa conoscesse questo altro maestro, differente da quello, per chi lo conosce, da Verkauft der Heimat, che è totalmente abominevole, no? E purtroppo è una figura importante, perché insomma Verkauft der Heimat tutti la conoscono. Sono molto d'accordo su questo, cioè nel senso che noi, insomma, stiamo cercando nel nostro piccolo di farlo con varie pubblicazioni, anche se la cosa è abbastanza dispendiosa, no? Nel senso che non è semplice da realizzare proprio per motivi economici di gestione di questa roba. Però appunto una cosa che noi abbiamo constatato, l'esperienza, insomma, adesso di 20 anni di lavoro come casa editrice, è solo però da qualche anno nella narrativa, ma però non anche nella saggistica, è la stessa cosa, è che qui ognuno, c'è pochissime persone che leggono nelle due lingue senza problemi. Anche se questo non significa che non sanno il tedesco, non sanno l'italiano, ma leggere un libro è un'operazione particolare, no? Per cui tu cerchi il libro nella tua lingua, no? Quindi questo è il primo punto. Questo che cosa significa? Significa che tu hai che ognuno dei due gruppi legge altre cose, no? Per esempio, o la roba è stata tradotta, oppure questo libro può avviare, non so, all'interno di un gruppo di persone di lingua italiana una riflessione sul fascismo, però è una cosa che ci facciamo tra di noi, e dall'altra parte non. Quindi la cosa sarebbe molto importante, noi ci battiamo e lo realizziamo, perché ho fatto già parecchie operazioni di questo tipo, non escludo anche di farle anche per questa, però appunto la difficoltà è poi un po' finanziarla dal punto di vista, diciamo, dell'utilità. Non avrei dubbi, non mi affiderei a questa ipotetica speranza che uno legge nelle due lingue, cioè questo lo dico, vale per tutti e due i gruppi, non è una questione solo del gruppo italiano che non sa il tedesco. Leggere è una cosa diversa che comunicare, e si tende, no, a buttarsi sulla propria lingua perché è più comodo, più semplice, più facile, più economico, no? Ed è un peccato questo, perché leggere insieme le stesse cose permette anche di comunicare meglio, no? Cioè, noi veramente abbiamo fatto alcune operazioni sia sul campo della narrativa ma anche sulla saggistica, proprio esemplari in questo senso. Cito l'ultima, quella di, solo per capirci, di Ansgar Peterlini, che ha scritto 10 anni fa Wir Kinder der Autonomie, che è una biografia poi sua, la sua biografia di una persona della Bassa Tesina, in questi, come il figlio dell'autonomia, quindi nato negli anni 60, che va avanti fino ad oggi, e l'abbiamo tradotto e anche aggiornato rispetto all'edizione iniziale, proprio perché riteniamo che per molte persone di lingua italiana fosse interessante confrontarsi con una storia di questo tipo e capire meglio l'altro, perché poi qui si tratta non di chi ha torto, chi ha ragione, ma secondo me il problema è come affinare una capacità a riconoscere i punti di vista degli altri, che non significa condividerli, no? Ma sapere, no? Che cosa c'è dietro, e questo purtroppo avviene poco, no? Ecco, sono d'accordo con lei, ed è un nostro tentativo esplicito da raggiungere, con le difficoltà. Io dicevo questo anche, senza voler generalizzare, poi per saldare un po', fra virgolette, la memoria di questa caratteristica che io trovo fondamentale, del fatto che fosse di origine cretina, che quindi avesse una tirolesità passata di lingua diversa, ma che quindi lo portasse ad avere un rapporto scevro da pregiudizi perlomeno. Tu parli un'altra lingua, siamo diversi, però siamo uguali. Ma questo perché la storia insegna, ci fu anche ai primi anni 30 ci fu la cacciata dei trentini, quanti Mussolini, i trecentisti famosi, Mussolini riteneva che questi non fossero sufficientemente nazionalisti e rimandava a creare questo uomo nuovo, perciò ne cacciò molti, si salvarono quelli nei paesi più isolati, mio padre fu uno di questi, erano quindi tutti del Pax. Sì, no, ma si salvarono perché erano nel paesino, non ci andava certo il tizio che veniva da chissà dove, però c'era questo problema che mi fa piacere sentire anche che lei ha chiesto anche dei testimoni, oltre che avere visto solo documenti. In effetti io, se non niente, l'ho sentita in casa per tanti anni, questo sentire l'impatto del vedere appunto che tu hai rubato il posto a un altro, per, anche per dirlo, e questo qui sta a bere i bicchierini ed è prepensionato. Oppure il problema di parlare con le Bäuerinnen che arrivano dalla montagna e non sanno la lingua, loro sì, perché il maestro di solito l'uomo prendeva i bambini in terza, quarta e quinta, quindi prima e seconda c'erano di solito le maestre, quindi i bambini già erano in grado, ma le mamme no. Come si faceva? Bisognava studiarsi la lingua in qualche modo, arrangiarsi, evitando il controllo del carabiniere, perché ti poteva denunciare. Però il libro ha questo, secondo me, questa grande capacità di rendere alcune di queste sfumature, perché il problema è questo, non è il fascismo, cioè non bisogna procedere con, no, con delle, si tratta poi di una serie di piccolissime sfumature che fanno la differenza, però, e qui questo, in questo senso qua lo vedo molto ben riuscito come no, e non lo dico adesso per le letture che dice, no, lo dico proprio, è un mio giudizio soggettivo, una mia valutazione soggettiva, riuscito a rendere un po' anche questo che lei diceva del clima che c'è, perché il discorso dell'ostilità, tutto questo non... cioè lui potrebbe fermarsi sul primo episodio, no? di rifiuto, no? E su questo costruire che non c'è niente da fare, no? Cioè che questi qui sono delle persone cattive, chiudere, no? Non chiudere significa aprire tutto un processo molto complesso, no? Molto complesso di relazione con questa realtà, no? A piccolissimi passi. Due passi avanti, uno indietro, due passi avanti, cioè giocando proprio, e questo è quello che poi si richiede a tutti noi anche oggi, no? nel rapporto tra persone, diciamo, non solo di gruppi di lingue diverse, ecco, cioè, insomma, in generale non è un discorso, adesso poi noi qui siamo polarizzati sull'italiano e il tedesco, sulle lingue, no? Ma non è un problema, il problema è proprio della relazione con l'altro, no? Stavo guardando l'orologio, diceva il mio professore all'università, diceva questo, non è grave quando guardano l'orologio gli studenti, è grave quando cominciano a fare così. Ringraziamo tanto Paolo Bilvalente, Aldo Mazza di aver trascorso la serata con noi in maniera così piacevole. E faccio un appello, visto che la RAI indice un concorso per giovani scrittori, ecco, prima Aldo diceva che ci sono tanti che in questi ultimi anni consegnano delle memorie, dei ricordi, l'abbiamo visto anche qua in biblioteca. Alcuni giovani hanno subito reagito. Insomma, è purtroppo anagraficamente circoscritto dai 18 ai 39. Ecco. Non nati nel 39, 39 anni, nato nel 39, no, sì. Se conoscete qualcuno, qualche ragazzo che abbia romanzo già nel cassetto, esatto, però. Esatto, qualcosa già nel cassetto, la sede RAI di Bolzano volentieri accoglie questi manoscritti che verranno poi valutati da una commissione, chissà, magari destinati o a una pubblicazione o a una realizzazione. Io tra l'altro purtroppo mi ero impegnato con Mazzucca a dargli l'informazione, vedi, ho fatto la mia, il problema è che sono stati 39 anni, avevo 6, 7, 9, ma Infatti, tutti fuori età praticamente. Anche da noi precedentemente. Paolo per pochissimo proprio. Sì. Io sono offerta, ma non mi vuole. Ecco, ma dobbiamo spacciarla per 18 anni. Comunque a questo proposito, se volete diciamo una risposta visiva alla domanda di prima, la differenza tra basta vedere le foto che ci sono dietro, si capisce subito qual è la una è estiva e l'altra è invernale.